fossi scema, tu credevi di potermi prendere in giro, tu credevi che l'avresti passata franca, ma chi va per darle davvero, di buscarle deve anche contare. Tu credevi che fossi scema, tu credevi di potermi prendere in giro, tu credevi che l'avresti passata franca. Ma chi cerca grane sul serio, presto o tardi poi le troverà. Ero disposta a lasciar per te casa, lavoro ed ogni che. Guarda bene a quel che fai, lui da solo può bastare. Ero decisa a rinunciar, libri, telefono, a passeggiar. Tutto il mio mondo, tutto per te, che amavo più di ogni qualche. Tutto il mio mondo, tutto per te, che amavo più di ogni qualche. Anche le amiche sempre con me, tutte deluse, sai perché. Pensa al cuore da retta a noi, lui da solo può bastare. Ma ci hai provato, mascalzon, con l'amica più cara che al mondo c'è. Tutto il mio mondo crolla con te, che amavo più di ogni qualche. Tutto il mio mondo crolla con te, che amavo più di ogni qualche. Tu credevi di potermi prendere in giro, tu credevi che l'avresti passata franca, ma chi va per darle davvero, di buscarle deve anche contare. Era un sogno vestito di seta e la marsina azzurra per te, fiori, decori, confetti, gran gala, tutte le cose che amavo con te. Ma il prezzo caro amico, perché le corna tu sai non fa certo per me. Un'altra cercati ormai che sopporti un pochino ancor più di me. Povera donna già pena mi fa, presto o tardi anche lei imparerà. Con la mia amica hai sbagliato a provare e hai fatto male i conti, perché il fatto che da ragazze di galli ne abbia lasciati già tanti, perché credevano essere più furbi, più belli, più maschi, più forti che al mondo c'è. E da allora ho deciso con lei che tutto sommato la vita è così, e l'amicizia che abbiamo tra noi e ci basta per sempre così.